Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. L'avrete riconosciuto dall'abilità, Luca Giulio è ancora alla regia. Grazie a tutti dell'attenzione, l'appuntamento viene rinnovato per domenica prossima, alla medesima ora. Buona settimana.